club delle Wings. Sono magiche, sono splendide, Winx magicamente qui. Ognuna ha un suo mondo tutto fantastico. Winx, il club delle Wings. Sono magiche, sono splendide, Winx magicamente qui. Ognuna ha un suo mondo tutto fantastico. Frequentano tutte il college di Alfea, una scuola per diventare grandi fate. Combinazione di amicizia e magia, l'avventura comincia con tutta l'energia. C'è Flora che ama la natura e i fiori, è molto sensibile e a volte insicura. Stella è la fata del sole e la luna, è la più sexy ed è sempre alla moda. Il suo regno è fatto di tecnologia. Musa